Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Stavolta le minacce erano rivolte all'Inghilterra ed il copione dell'orrore si è ripetuto con l'uccisione di David Haynes, un cooperante scozzese rapito in Siria nel marzo del 2013. La terza vittima degli assassini dell'IS, l'Islamic State, dopo i due giornalisti statunitensi, James Foley e poi Stephen Sotloff. Si teme che il boia sia lo stesso delle altre decapitazioni, ovvero Shihadi John, l'uomo con l'accento inglese che l'intelligence... Abbiamo dovuto necessariamente prendere dei vecchi filmati che parlavano dei tagli delle teste, degli sgozzamenti, dei filmati propagandistici dell'ISIS. Perché? Perché da qualche tempo non se ne sente più parlare. Vi siete resi conto che è un po' che non è più all'onore delle cronache, se non qualche notizia, non dico marginale, ma che non ci tocca direttamente. Dalle parti della Libia qualcuno che fa parte di qualcosa che rappresenta una piccola fetta della realtà di quello Stato ormai smembrato ci dice: attenzione, stanno arrivando con i barconi gli uomini dell'ISIS in Italia. Beh, questa mattina invece io riprendo a parlarne, perché mai un libro fu tanto annunciato. Oggi ho tra le mani finalmente un libro che è nato probabilmente davanti a questi microfoni, da me lungamente istigato e sollecitato anche dai nostri ascoltatori. Bruno Ballardini ha finalmente dato alle stampe, oggi in libreria, ISIS, il marketing dell'Apocalisse, editore Baldini e Castoldi. Bruno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Perché non si parla più di ISIS questi giorni? Per tre motivi fondamentali. Uno è che non arrivano le notizie perché sono sotto attacco. Infatti, se notate, non arrivano più i vecchi filmati di Al-Hayat, Al-Furqan, le due principali case di produzione, perché si stanno spostando continuamente. Vengono quindi smantellati gli studios. Poi il fatto che non c'è nessun giornalista nostro, ma non c'era dall'inizio, i nostri se ne stanno comodamente in ufficio. E infine c'è la solita consuetudine dell'aspettare l'imbeccata dagli Stati Uniti, perché noi siamo, diciamo, sotto la coalizione e quindi aspettiamo di doverci comportare secondo i loro suggerimenti. Beh, dagli Stati Uniti Hillary Clinton sembra che stia aprendo gli X-File segreti, raccontando di tutto, perlomeno pare sia dietro lei alle grandi rivelazioni che anche la cattura e l'esecuzione di Osama Bin Laden, da cui è stato fatto anche un film, attenzione, il villaggio, il plastico e via dicendo, sarebbe tutta una grande costruzione. In realtà era già bello che morto, già preso in tenuto in mano agli afghani e l'hanno negoziato. Insomma, ci sembra strano, perché anche i carabinieri del Regio Esercito, quando prendevano il brigante Musolino, altri briganti lo attaccarono a una scala, lo fotografavano e lo facevano girare. Che il pericolo pubblico numero uno venga ucciso e non si veda il cadavere mi sembrava singolare. Sì, è complottismo anche questo? No, attenzione al complottismo, perché in rete ce n'è tantissimo. Infatti lo spiego, il libro è fondamentalmente sul cortocircuito della rete, oltre che sull'ISIS chiaramente. Non è un libro complottista questo, è un libro che spiega le fonti aperte che ognuno può avere a disposizione. Io ho cercato di reperire documenti, infatti ci sono anche dei documenti che ormai esistono soltanto in un museo di Londra, che riguardano la prima guerra in Afghanistan, che svelano quello che poi la Clinton stessa ha svelato, cioè che gli è sfuggito di mano il meccanismo. Cioè, l'ISIS è una costola di Al-Qaeda, ma Al-Qaeda l'hanno creata loro. E quindi è tutto documentato. È molto interessante il fatto che lei, pur di arrivare al potere, lei è pericolosa oggettivamente. Qual era lo scopo di creare Al-Qaeda all'inizio? Era fermare i russi. Ci sono i documenti addirittura dei libri di testo dati ai bambini dell'Afghanistan per incitarli, per educarli all'odio e al sangue. E quella generazione che dei primi anni 80, 20 anni dopo, sono esattamente gli stessi che hanno ingrossato le file di Al-Qaeda. Cioè, l'operazione è di tipo culturale, raffinatissima. E con questo colgo l'occasione per salutare gli amici della CIA che mi seguono affettuosamente dal 95. Diciamo, non hai dei vantaggi, immagino? No, nessuno. Ogni tanto ci incontriamo, ma insomma, in occasioni assurde, tipo dei party di addio di un amico fisico che va a lavorare al centro della NATO. Io non sapevo nulla, però poi mi si avvicinano delle persone che mi fanno delle domande sapendo tutto di me, e io non conosco queste persone. Allora, io non ho le traveggole. Se uno vuole, si informa. Quello che non fanno i nostri giornalisti. Precisamente. Cioè tu non hai informatori, tu usi no. soltanto fonti aperte che chiunque può controllare. Te ne vai a cercare, ma comunque... Me ne vado a cercare, ho fatto una fatica, ho fatto le albe. Sì, non è che hai corrotto persone o hai violentato archivi segreti, Fortunatamente è tutto ancora disponibile, si tratta solo di fare la fatica di andarlo a cercare. Quello che dicevo appunto non fanno i nostri giornalisti, tra l'altro voglio dire, quando anche Rai News 24 dice noi non faremo vedere niente, ve lo spieghiamo noi, fa un'operazione molto grave. Perché noi vogliamo sapere le cose, non abbiamo bisogno di gente che ci spieghi le cose, perché poi le spiega sempre a modo suo. Questo è inaccettabile. Allora, marketing dell'apocalisse. Il primo capitolo, che è il capitolo più tosto di questo libro, secondo me è quello fondamentale, in cui spieghi esattamente, da uomo che analizza i media, da uomo che ha studiato la pubblicità, che ha fatto pubblicitario, su cose, quali sono i punti fondamentali, i pilastri su cui è basato questo tipo di comunicazione. Innanzitutto, gli stakeholder chi sono e chi sono i bersagli finali di questa comunicazione? Allora, è elencata tutta una fila di bersagli. Non siamo soltanto noi, ma c'è anche l'Islam, perché il tentativo è quello di scardinare dall'interno l'Islam. Non esiste un Islam moderato, esiste l'Islam e basta, diciamo. Alcune correnti che sono apparentemente minoritarie sono però quelle che sono in grado di mettere in contraddizione l'Islam con se stesso, e sto parlando dei wahhabiti. Il wahhabismo è il credo estremista dell'Arabia Saudita, che figura fra i finanziatori dell'ISIS. Cioè non ci sono le prove di questo, ma ci sono dei continui elementi, tracce lasciate, il fatto che vadano a bombardare da un'altra parte invece che bombardare l'ISIS, e poi parliamo anche della Turchia, che la Turchia sta facendo un strano doppio gioco. E cosa succede? Che il wahhabismo è capace di scardinare le difese interne, è come se degli estremisti cattolici prendessero il sopravvento e mettessero in crisi... Ma la questione curda sollevata dal Papa, che sembra creare un incidente internazionale, ha a che fare con questo? Intanto dal numero di telefono 800240024, siamo in diretta, come? Nelle precedenti puntate in cui sui giornali vedevate le foto sfocate, pixelate, dei tagli di testa, erano bollenti i telefoni. Oggi non c'è più il problema, non avete più paura, vi avete dimenticato il terrorismo che verranno a beverare i loro cavalli, i loro cammelli nelle fontane di San Pietro, è tutto passato, siamo pronti al giubileo e quindi non ci preoccupiamo più. 800240024. Allora, sulla questione Turchia, Papa, curdi, non, la mia curiosità ha a che fare con questo panorama che tu hai analizzato? Il Papa sta giocando una partita molto difficile, cioè qui stiamo parlando di geopolitica, io tra l'altro non sono un esperto di geopolitica, mi limito soltanto ad analizzare la comunicazione e le strategie che ci sono dietro, poi qualcun altro tirerà le somme e interpreterà nel modo migliore. Sicuramente era una mossa diretta alla Turchia, che in questo momento sta diventando una dittatura teocratica islamica, cioè noi non ci rendiamo conto, ma chi ci vuol far entrare la Turchia in Europa non si rende conto nemmeno, o forse lo fa apposta per indebolire l'Europa. Fatto sta che la Turchia non è Europa e non deve far parte dell'Europa, è Islam integralista. C'è una parte della Turchia strano che è il paese laica, che storicamente dalla rivoluzione dei giovani turchi sembra il paese più aperto, diciamo, all'occidentalizzazione. Allora, le frontiere con la Siria sono un colabrodo e una giornalista è stata uccisa dai servizi segreti turchi per aver testimoniato come avrebbe fatto Ilaria Alpi il fatto che passavano tranquillamente carovane dell'ISIS avanti e indietro per il confine turco. È stata avvistata una nave turca davanti alla Libia che stava rifornendo l'ISIS. Tutte queste cose non vengono passate dalla nostra stampa perché noi siamo fedeli agli alleati americani, che ovviamente ci spingono a essere amici dell'Arabia Saudita, amici della Turchia e di tutti quelli che rappresentano l'Islam sunnita in guerra. Torniamo al tuo libro, se no non facciamo tempo a parlarne. Tu hai analizzato quelli che sono dei veri e propri format, che è la parte più originale e più interessante di questo libro. Ci sono delle telefonate? Mi fate segno? Non vedo niente. No. Non mi fate segni? Non abbiamo clip, non ho nemmeno l'elenco dei clip, quindi non posso commentare nulla. Devo dire, Mi fai un riesame e una nuova analisi di quelli che sono i format che hai maggiormente analizzato? Ma in realtà la cosa più interessante è che c'è un palinsesto, cioè naturalmente a noi per il nostro scandalismo arrivano soltanto i filmati degli sgozzamenti, ma non arrivano neanche i filmati degli sgozzamenti. Ma chi mette i pixel? Li mettiamo noi o arrivano già pixelati? Li mettono loro. E qual è il motivo di fare una cosa e poi pixellarla? Ma in realtà perché fai vedere il risultato finale dopo, cioè non si vede il taglio della testa, non c'è nei filmati, non si vede. Ma perché questo sei domandato? Tranne in alcuni casi dove si vede in modo molto chiaro, perché lo fanno apposta in risposta alla rete che ha detto: ah, ma no, è tutto un complotto, sono teste finte, sono effetti speciali di Hollywood. E allora gli hanno risposto con un filmato micidiale dove hanno proprio il momento sgozzato 18 aviatori siriani. Io ricordo i primi tagli di testa, ma ancora ai tempi, diciamo, di molti anni fa, era terribile, sentiva, ma ti parlo di 10 anni fa, sì. Sentiva l'urlo di un maiale sgozzato. Sì, esattamente. Io che vengo dalla campagna, esattamente quello. Adesso è ma tutto anestetico. È molto curato. Per permettere che possa essere trasmesso anche a un telegiornale alle 20. Ma l'obiettivo è quello di creare ancora più terrore, perché in realtà non faccio vedere l'atto, ma faccio vedere il risultato finale. Il che stampa nella testa, nella mente dello spettatore, l'atto, cioè quello che precede quello, il risultato finale. Quello che io non ho visto ha più efficacia, lo dico da ex pubblicitario. Nessuno lo guarderebbe perché è raccapricciante. Nessuno lo guarda. Te lo rende edulcorato in modo che tu possa prendere fino in fondo il messaggio. Esattamente. Questa è una tecnica da pubblicitari, che è nota a noi. Io sono un ex pubblicitario e posso dire che l'abbiamo usata 1000 volte. Faccio vedere il risultato finale senza far vedere il processo. Come vedere il lenzuolo con le macchie di sporco e il lenzuolo pulito lavato al sole. È più senza efficace vedere mentre quella lo lava. Esattamente, più efficace del processo. 800 24 00 24, fermiamo un istante soltanto per il traffico. Melog, cronache meridiane. È l'ultima pagina dell'orrore scritta dall'ISIS, il califfato islamico. Un bambino di più o meno 10 anni che uccide a sangue freddo 2 prigionieri. Un video di 8 minuti, girato in modo professionale, montato come un film. Nella prima parte un lungo interrogatorio di 2 uomini che dicono di essere kazaki, confessano di essere spie, infiltrati tra i foreign fighters, i combattenti stranieri. Poi quella scena in una steppa desertica, il cucciolo d'uomo a fianco del guerrigliero che inneggia da là e invoca la vendetta, e la mano che esegue, la mano del boia, è quella del bambino. Quanta retorica si è sprecata nei nostri giornali: il cucciolo d'uomo, il bambino educato a uccidere, il bellissimo testimonial, come fosse il testimonial di un formaggino con i capelli sciolti e il vestito impeccabile, la maglietta nera strafighetta, mancava il mare North Face per far vedere che era anche lui in linea, che stava lì tranquillamente, sparava in testa 2 kazaki inginocchiati. Tra l'altro il bambino si era visto un anno prima circa in un altro filmato, La corsa verso il bene, è uno dei filmati di cui parlo, c'è anche una filmografia intera, sono diventato il Gianluigi Rondi dell'ISIS quasi. Il bambino spara con una Glock, si riconosce una pistola austriaca quadrata, e sono 2 spie, presunte spie russe, infiltrate nell'ISIS. Allora, qual è il messaggio? Il messaggio è che catturare e giustiziare delle spie per noi è un gioco da bambini. Questo è tradotto in termini di strategia. Naturalmente di ci commuoviamo, come ci commuoviamo a vedere lo Zecchino d'Oro, le storie dei giovani tenori, ci commuoviamo per questo bambino. Ricordo che in studio Bruno Ballardini, autore di ISIS, il marketing dell'apocalisse, libro appena uscito questa mattina dalla Baldini e Castoldi. Mi domandano se c'è l'edizione elettronica. Certo, c'è anche l'ebook, potete tranquillamente scaricarvelo. Luca, buongiorno. Luca. Pronto? Eccomi. Ok. Buongiorno, il mio intervento verteva solo su 2 argomenti e cercherò di essere breve. Uno, senz'altro confermando l'impressione che avete voi, ovvero il fatto che non... Cos'è in viva voce, Luca? Sento un po' male, mi scusi. Sì, è che sto guidando, mi fermo. Accosti un attimo, allora, non voglio avere responsabilità. No, l'impressione è senz'altro da parte, credo, di tutti. Quella di dire che la cosa è stata messa a tacere dai media ultimamente, è verissimo. È altrettanto vero che la maggior parte della gente tante volte non si fa queste domande, e questo è un altro problema. La funzione di un mediatore è che di porre gli spunti perché la gente si faccia domande, normalmente certo, nessuno certo se le fa le domande. No, ma meno male che ve lo state facendo. Allo stesso tempo quello che volevo dire è un'altra cosa. gli argomenti che stavate prima sviscerando, che sono di una difficoltà, di un'enormità, e sono talmente tanti e soprattutto molto sconosciuti alla maggior parte della gente, trovo che, se possibile, debbano essere esposti uno alla volta con un po' di chiarezza, perché, ripeto, lei ha ragione, ma io ho un quarto d'ora, no, non ho più. No, la capisco, però per esempio il discorso dei sauditi è una cosa che è stata esposta per esempio una volta dalla Rula in televisione, che è stata Rula Gebral, non a caso è stata tacciata di essere qui, essere là, e ne stava parlando con dovizia di dettagli, ma evidentemente per un programma di prima serata non andava bene, no? Era troppo dettagliato. Invece se ne parlate, credo che sia una cosa interessante. Chiudo: lavoro con i paesi arabi, lavoro con i musulmani, pur viaggiando ovunque o quasi, senza aver mai avuto paura, questi signori con i loro bei video fatti tra l'altro molto bene, quindi le cose che dicevate e i dubbi che portavate me li sono fatti io per primo, cioè come diavolo fanno a fare cose così ben fatte. Ballardini lo spiega nel suo libro esattamente come viene composto il set, cosa usano, com'è la sequenza, perché non tagliano la testa in diretta, perché sarebbe faticoso e noioso e impossibile tagliarla con un coltello, si fa prima con una scimitarra, con accetta, con una motosega, non so come. C'è una sequenza cinematografica fornita e messa a punto, un metodo. Quindi concluda, Luca. No, concludo dicendo che è senz'altro qualcosa di architettato molto bene e che sta dando i suoi frutti, perché io personalmente sono una persona che non si è mai posta problemi nel viaggiare, nel andare in questi paesi, anche alcuni di quelli di cui state parlando, e che invece da quando sono cominciate queste cose ha tirato un freno a mano in un certo senso. Per la stessa ragione funziona il marketing strategico e funziona anche il marketing in sé, per la stessa ragione che noi compriamo un tipo di formaggino invece di un altro, usiamo un sapone invece di un altro, perché è efficace, Bruno. Ma certo, adesso c'è tanta gente che ha disdetto dopo l'attentato in Tunisia al museo, non ci sono più viaggi turistici. Fanno i gruppi, no? Facebook, andiamo lo stesso, cioè, in Tunisia. I tour operator, che sono anche italiani, sono incazzati neri per il fatto che questa cosa qua, pompata dai nostri media, certamente è un attentato, ma non è che ne avviene uno al giorno. Altra cosa è stare sul teatro di guerra in Siria, in Iraq, allora lì è ovvio che il resto sono tutte fandonie. Per esempio i gommoni che vengono a invaderci sono un altro mito. Da una parte ci sono i leghisti che hanno la paura degli immigrati, e dall'altra c'è una disinformazione. C'è perfino il governo di Tobruk che vuol farsi pubblicità cercando di attirare l'attenzione, sono dei poveri sfigati, ma in realtà non c'è nessun gommone con l'ISIS. Scusami Bruno, per riflettere, una persona, un'organizzazione capace di organizzare un network televisivo così complesso, secondo te perché non prende un aereo prendere il gommone, perché non prende un aereo, non prende un autobus? Ma loro sono già qui, avete visto che c'era Al-Qaeda in Sardegna, cioè sono sciocchezze queste, cioè, se vogliamo stanno già aspettando alcune cellule, ci sono, e noi invece siamo a un livello in cui Minniti in televisione fa un distinguo tra ISIS e IS, perché dice che loro non amano farsi chiamare ISIS ma IS, ma sono acronimi di un nome inglese, loro non si chiamano nemmeno così, si chiamano Al-Dawlah, che vuol dire lo Stato, o Khalifa, che è il califfato. Cioè siamo a un livello di ignoranza che vedono la bandiera dell'ISIS sventolare sull'obelisco, e tutto quello che sono capaci di fare Minniti e Alfano è aumentare le scorte in Piazza San Pietro. Questo è ridicolo, assolutamente ridicolo. Basta Photoshop, ma anche meno, basta un software gratuito. Daniele, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Io sono da Bari, ma sono di Nocera Umbra. Bene. La mia perplessità risiede in una dichiarazione fatta 5 minuti fa dal suo interlocutore, sì, quando egli sostiene che gli Stati Uniti ci spingerebbero verso la Turchia e l'Arabia Saudita, in quanto dovremmo sostenere nella polemica internazionale i sunniti contro gli sciiti. Mm-hmm. Ma allora come si spiega il tentativo di Obama di riaprire le porte all'Iran, che è notoriamente il paese sciita più importante della regione e che effettivamente contrasta con l'Arabia Saudita per la leadership nella regione? Lei da Nocera Umbra, mi ha confuso le idee. Fermo un attimo, è tutto chiaro. Me lo spiega. La ringrazio della domanda, è spiegata anche nel testo, nel mio libro, e cioè c'è una nuova ondata, una nuova moda nella politica internazionale statunitense, che è partita da alcuni articoli scientifici che hanno suggerito un nuovo atteggiamento nella gestione dei rapporti, che si chiama ambiguità. Ecco, l'ambiguità è quella che permette di far finta di essere alleati di qualcuno e sotto traccia, di nascosto, fare dei patti o delle alleanze transitorie, perfino con Assad o con la Siria. Con Teheran. Una tecnica antichissima del divide et impera. Esattamente, esatto. È sempre stata applicata in tutti i manuali di tattica, di strategia, e chiaramente è così invasivo, così pervasivo e così diffuso. Io cito anche gli articoli, sono dei documenti scientifici di alcune università, perché loro usano per tutte le nuove tecnologie, tutte le nuove le cose di aggiornamento, usano il lavoro delle università. Allora, Ballardini è un certo uno che dice le cose perché le ha leggiucchiate in internet. Questo è un libro documentato, vi consiglio di leggerlo e di farvi un'idea precisa o perlomeno critica rispetto alle letture ufficiali. Grazie Bruno Ballardini, grazie alla a voi. Prossima.